America 24 di Mario Platero. Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24. Cominciamo con una notizia purtroppo tragica, un incidente in miniera. Anche in America ci sono gli incidenti in miniera, l'America dell'alta tecnologia ci riporta improvvisamente indietro nel tempo in West Virginia, 25 minatori morti, 4 dispersi. I'm gonna go all the way. So apparently these handrails are very slimy. Ecco le voci dei primi soccorritori, voci che rimbombano, voci che in qualche modo ci danno l'idea della tensione e di quello che è successo. Una esplosione improvvisa in questa miniera Upper Big Branch a 48 chilometri a sud della capitale, a sud di Charleston. È il peggiore incidente nelle miniere americane al 1984, quando 27 minatori persero la vita nella miniera di Emery Mining Corp. Un incidente in miniera ci porta improvvisamente in una regione degli Stati Uniti che è poco conosciuta, le montagne degli Appalachi, dove vivono comunità di persone da secoli, è il caso di dirlo, e dove intere famiglie per generazioni hanno continuato a lavorare in miniera con orgoglio, nonostante gli incidenti continui. 18 morti nel 2009, 30 nel 2008, 34 nel 2007, addirittura 47 morti nel 2006. L'America dell'alta tecnologia, che si è appena buttata nei negozi per comprare l'iPad, scopre che purtroppo per l'energia, per il carbone, sono miniere di carbone, si continua a morire. Deepest condolences, our thoughts and prayers to the families and the friends of the workers who lost their lives. Le condoglianze del presidente, sentimenti di solidarietà per le famiglie, per gli amici. Era un saluto sentito quello del presidente, anche perché la politica energetica, l'energia è uno dei perni centrali della sua politica e il carbone gioca un ruolo importante nell'economia americana. A questo punto l'America dovrà davvero guardarsi allo specchio, esaminare questi dati di questi continui incidenti e rendersi conto che in America gli incidenti capitano, i morti ci sono. L'altro giorno in Cina invece abbiamo visto un incidente analogo, sono stati salvati un centinaio di minatori. This is a good day for America and our security, and as President Obama just reiterated, it is one of the highest priorities of the Obama administration. È una buona giornata per l'America, dice Hillary Clinton, una buona giornata per l'America, per la sicurezza. Il presidente Obama ha messo a punto le priorità per la riduzione del numero delle armi atomiche, una priorità questa che consente di avere più sicurezza nel nostro futuro. Nei prossimi giorni, sottolinea il segretario di Stato americano, si fermerà un accordo con la Russia. Nei prossimi giorni significa poi l'8 di aprile, cioè domani, un accordo importante con la Russia per la riduzione degli armamenti. Sentiamo il segretario alla difesa Gates sullo stesso argomento. The NPR provides a roadmap for implementing President Obama's agenda for reducing nuclear risks to the United States, our allies and partners. Ecco, il segretario Gates dice che questo rapporto che è stato presentato ieri alla Casa Bianca è un rapporto che ci dà una mappa, ci dà un percorso per migliorare la sicurezza nucleare, la sicurezza atomica e la sicurezza in genere degli Stati Uniti. Ridurrà i rischi nucleari per l'America e ci sarà soprattutto l'idea di chiudere finalmente con la guerra fredda, con il sistema della deterrenza e di liberare il mondo, dice Gates, dalle armi nucleari, che poi è l'obiettivo prefissato nel lungo termine dal presidente Obama, lo ha detto anche quando ricevette il premio Nobel per la pace. Ecco, davanti a queste parole di ottimismo c'è da chiedersi fino a che punto questa strategia funzionerà. Ci sono già polemiche, il presidente si è imposto in realtà su Gates, che qui fa buon viso a cattivo gioco, e ha chiesto che non fossero costruite più delle nuove armi atomiche, cosa che invece Gates voleva, e soprattutto il presidente ha rinunciato almeno parzialmente al diritto di attaccare per primi. Ecco, queste sue posizioni sono delle posizioni che lo pongono, come sempre succede, succede nella sua politica un po' al centro, cioè lui cerca di porsi al centro, però in realtà finisce per scontentare e sia la destra che la sinistra. La destra, che avrebbe voluto comunque una posizione aggressiva, ma scontenta il presidente anche i liberal della sinistra, che invece avrebbero voluto una presa di posizione più precisa. C'è da dire che questa posizione del presidente è una posizione che gli spianerà la strada non soltanto al vertice di domani a Praga con il presidente russo Medvedev, ma anche al vertice che si terrà a Washington nei prossimi giorni sul disarmo nucleare. Le scelte politiche di Obama dunque sono di più ampio respiro. Il presidente è ben conscio di incontrare degli incidenti di percorso sul piano dell'immagine, ma questa è una sua scelta che secondo lui alla fine produrrà dei risultati, ad esempio in termini di concessioni di sanzioni contro l'Iran. What do we put in the ground? We put some seeds in and we put some buds in. Last year we did broccoli. What else did we plant? Sweet potatoes. We did some sweet potatoes in the fall. What do we do in the spring? La grande Michelle Obama, che dà un'idea a dei ragazzi, dei ragazzini che l'aiutano a piantare l'orto nella Casa Bianca. È stata una delle iniziative di maggior successo di tutte le First Lady nella storia americana. Michelle Obama ha deciso a un certo punto che avrebbe voluto avere un orto nel giardino della Casa Bianca. Il messaggio era un messaggio contro l'obesità infantile, contro il junk food, e dunque ha invitato dei ragazzini, dei bambini ad aiutarla a preparare il terreno e poi a seminare. E nella voce, nella sua descrizione che abbiamo sentito poco fa, chiede a questi bambini: bene, che cosa abbiamo piantato la prima volta? Dei broccoli, rispondono i bambini. E poi che cosa? Delle patate. E in primavera che cosa abbiamo piantato? Peas, dei piselli. Quindi a tutto campo la piantagione, l'orto della Casa Bianca. Michelle Obama con questa iniziativa si è conquistata il favore e il cuore degli americani. Il suo indice di aggradimento è salito addirittura al 71%. Non solo, la Casa Bianca, sempre su sua iniziativa, dispone di due arnie per la produzione del miele e ha deciso Michelle, ed è questa la notizia che ci ha dato appunto un paio di giorni fa, di allargare l'orto di altri 50 metri quadrati per coltivare almeno altri 55 tipi di colture. Una notizia allegra e gradevole. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vorrei dedicarla ai minatori, alle miniere, con una vecchia canzone di John Denver, una canzone del 1971, Country Roads. Country Roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mount Mama. Dunque dice: Country Roads, strade della campagna, riportatemi a casa, riportatemi al posto che mi appartiene, riportatemi alle montagne della West Virginia, proprio quelle montagne dove c'è stata l'esplosione tragica e terribile di questa miniera. Ecco per voi John Denver. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, missed a taste of moonshine, teardrops in my eyes, country road. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!